Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici. A Porta Romana, che sera pioveva. A Porta Cica, che sera pioveva. A Porta Genova, che sera pioveva. A Porta Olbia, che sera pioveva. A Porta Garibaldi, che sera pioveva. A Porta Venezia, che sera pioveva. A Porta Vittoria, che sera pioveva. A Porta Magenta, che sera pioveva. A Porta Ludovica, che sera pioveva. A Porta Nova, che sera pioveva. A Porta Vicentina, che sera pioveva. Ci ha accolto e ci accompagnerà oggi Nanni Svampa, perché questa è una puntata dedicata a Milano e cominciamo con un libro di Bonvesin della Riva, Le meraviglie di Milano. La traduzione dal latino è di Giuseppe Pontigia, la prefazione di Vittorio Sgarbi, è introdotto da Maria Corti e il volume è pubblicato da Bompiani, 222 pagine, 16 euro. Questo è un libro del 1288, scritto da un intellettuale, diremmo noi oggi, dell'epoca, che era un maestro di grammatica, anche terziario laico degli ordini degli umiliati, vissuto tra il 1240 e il 1314 circa. E questo forse è il primo libro su Milano e uno dei più celebri per la passione, l'amore, l'entusiasmo che l'autore dimostra nei confronti della sua città. Di Milano Bonvesin della Riva dimostra di apprezzare ogni aspetto, dalla posizione geografica alla cura architettonica, all'aspetto e al carattere dei milanesi, alla ricchezza, alla forza, alla saldezza nella fede cattolica. Ci sono solo due difetti che Bonvesin della Riva indica alla fine del libro quasi di sfuggita: la mancanza di un porto e poi, forse più importante, il difetto di concordia civile. Ed è un peccato questo, dice Bonvesin, perché per una città che potrebbe essere la seconda Roma e che meriterebbe di diventare la sede del papato e di tutte le altre dignità civili, la mancanza di concordia civile può essere appunto una controindicazione. Ma insomma, è tale l'entusiasmo di quest'autore che ho voluto risentirlo e quindi ho chiesto a Bonvesin della Riva un'intervista impossibile. Bonvesin della Riva si è recato presso uno delle più importanti istituzioni culturali milanesi, la Pinacoteca e Biblioteca Ambrosiana, che fu fondata da Federico Borromeo nel 1607, e gli dà appunto voce il prefetto, cioè il direttore della Biblioteca Ambrosiana, Monsignor Franco Buzzi. Buongiorno a Messer Bonvesin della Riva. Buongiorno, dottore. Come va? Bene, bene, Messer Bonvesin. Allora, Milano riscriverebbe oggi le meraviglie di Milano? Lei Milano da lì dove si trova adesso la vede, la percepisce, ha qualche notizia? Risponde ancora? Milano sempre viva. Sempre viva perché capitano tante cose belle qui attorno a noi. Stiamo attendendo, tra l'altro, anche una prossima pedonalizzazione qui della zona antistante la Biblioteca Ambrosiana, in modo da rendere più facilmente visibile e accessibile questo stupendo monumento, la facciata della Biblioteca Ambrosiana, che dall'Ottocento in poi ha preso questa forma, insomma, e che è conservata ancora molto bene. Anzi, abbiamo anche l'opportunità prossimamente di illuminare questa facciata. Con una sponsorizzazione particolare otterremo questo risultato, che certamente metterà in luce questa bellezza. Quindi lei è al corrente, nonostante sia un umiliato, di tutte le tecniche moderne, compresa la sponsorizzazione. Vede che cerco di tenermi aggiornato, caro dottore. Bene, fa bene, fa bene. Senta, ma non le sembra di aver esagerato con questo libricino su Milano? Addirittura anche il clima di Milano le sembra una cosa meravigliosa? Il clima, ma intende il clima fisico? No, lei parla del clima fisico, sì, dice che come si sta a Milano non si sta da nessuna parte. Guardi, l'umidità è tipica della nostra zona, purtroppo qui noi soffriamo per un'umidità altissima, però sa, l'umidità contiene un principio di vita, insomma, siamo in gran parte ancora il risultato di una umanità che viene dal mondo dell'acqua, no? Quindi come del resto tutti gli esseri viventi, perciò noi ci troviamo nel nostro elemento, sinceramente. Senta, veniamo a un aspetto più serio. Nel suo libro sulle meraviglie di Milano, lei a un certo punto, anzi conclude questo libro dicendo: per i tiranni qui non c'è posto, Milano è il posto della libertà. Ecco, come mai questo peana alla libertà di Milano? La libertà di Milano va sempre custodita, perché nessuno ha la possibilità di ergersi sugli altri diventando il padrone o il signore della mente e delle opere degli uomini, no? Quindi la libertà è costitutiva di questa realtà di Milano e noi la difendiamo, l'abbiamo sempre difesa, e ci impegniamo comunque perché questo sia rispettato da tutti. E viviamo ormai in un clima democratico in cui è possibile esprimere le proprie idee, confrontarle, ma certo questa democrazia, a quanto mi risulta, ancora oggi non è in nessun modo compromessa. Senta, invece lei conclude il libro sottolineando un difetto di Milano, che è il difetto di concordia civile. Che cosa intendeva dire? Lei riconosce questo difetto nella Milano di oggi? La concordia civile è sempre l'ideale al quale deve tendere ogni organizzazione umana ed è il risultato della buona volontà di tutti nel mirare a un bene comune che quindi non si identifica soltanto con aspetti privilegiati, insomma, di parte. E la concordia comune è sempre il risultato di uno sforzo intenso e di una capacità di mettersi in discussione in rapporto a qualche cosa che trascende il proprio interesse particolare. E lei sa che in tutte le società c'è sempre un conflitto da questo punto di vista. Il conflitto c'è, sussiste anche però la buona volontà di confrontarsi in vista di un superamento. A un certo punto, sottolineando la ricchezza delle professioni milanesi, lei parla nel suo libro dei giureconsulti e dice che sono i più bravi del mondo e poi si lascia scappare che questi giureconsulti, pronti a mettere giudizi, accettano volentieri denaro dai litiganti. Ma insomma, il tarlo della corruzione allora c'è sempre stato a Milano. Il tarlo della corruzione è vecchio quanto è vecchia l'umanità. Però certamente i giureconsulti, con il loro bellissimo palazzo che abbiamo qui e non tanto lontano da noi, sono il richiamo a quella capacità da parte dei cittadini milanesi di governare il loro Stato, una società che è stata in grado anche sotto la dominazione cosiddetta spagnola di avere il primato e di mantenere a Milano quelle leggi che furono dettate dal meglio della società milanese del tempo, riferisco soprattutto all'epoca del 5, 6, 700, insomma. In quest'epoca Milano è stata grande perché attraverso la sua organizzazione dei giureconsulti, dei mercanti, dei grandi commercianti, poi anche della nobiltà locale, ha saputo comunque mantenere uno Stato che rispondesse alla situazione della nostra Lombardia. Messer Bombesini, lei a un certo punto scrive nel suo libro che Milano, o meglio la sua bellezza, la sua ricchezza, la sua potenza, suscita grande invidia. Ecco, questo sentimento nei confronti di Milano c'è ancora? Milano, che sentimento suscita secondo lei? Invidia, rispetto, antipatia? Milano è simpatica oggi al resto dell'Italia? Milano continua ad essere simpatica al resto dell'Italia, purtroppo la gelosia, l'invidia soprattutto, ha delle radici profondissime e non dominabili, perché l'animo invidioso porta a negare l'evidenza, porta a quel tipo di venticello, quella calunnia famosa, che purtroppo nuoce alle persone e non consente di vedere la realtà, di lasciare apparire le cose così come sono. È sempre appetibile Milano perché rimane comunque un centro di grande industria, commercio, traffico eccetera, ma oggi come oggi si sviluppa anche con attenzioni molteplici ad altri ambiti del vivere comune, cioè l'attenzione al turismo, l'attenzione alla cultura, l'attenzione agli aspetti anche di vita religiosa. Mi risulta tra l'altro che ospitale come Milano di città non ne esistano tanti, né tante in Italia, perché l'emigrazione ha avuto qui da noi un massimo di presenze, insomma. Quindi anche da questo punto di vista Milan culcur in man, insomma, si vede ancora. E, fra l'altro, fra tutte queste grandi istituzioni ci sono anche quelle culturali e quella che in questo momento la sta ospitando, cioè l'Ambrosiana. Sì, anche la nostra istituzione ambrosiana direi che negli ultimi anni abbia fatto proprio questo tentativo di maggiore apertura e soprattutto di volontà di coordinamento con le istituzioni locali, avvertendo anche un grande elemento di non solo di cordialità ma di apertura e di coinvolgimento, insomma, perché anche queste istituzioni insieme con noi sono più forti e noi insieme con loro lo siamo altrettanto. L'hanno avvertita che fra qualche anno ci sarà una grande fiera che chiamano Expo? ho sentito parlare di questa Expo. Ha capito di cosa si tratta? Sì, sì, ho capito, ma le idee arrivano molto confuse perché le notizie sono tali. E il clima su questo punto è risultato abbastanza litigioso, ma il litigio dovrebbe poi portare a un dispiegamento di forze operative che ci consentano di vedere questa bellezza, questa meraviglia, questo incontro di tutte le civiltà a Milano per vedere di che cosa siamo capaci. Insomma, dopo 700 anni lei resta un inguaribile ottimista. Sono sempre ottimista, sono incurabile da questo punto di vista e me ne vanto. Grazie a Bonvesin della Riva. Grazie, buongiorno a lei. Buona domenica. Buona domenica. E vi ricordo che alla Biblioteca Ambrosiana è in corso fino al 5 di settembre la mostra dei fogli del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, che nel corso degli anni viene tutto mostrato al pubblico. La puntata è in corso, appunto, fino al 5 settembre, dedicata a Leonardo, la politica e le allegorie. Rimaniamo in compagnia di Leonardo da Vinci, che troviamo in una veste insolita nel libro La Dama di Leonardo, è pubblicato da Nord, e l'autrice Diane Stuckart, 386 pagine, 18,60 euro, tradotto da Chiara Brovelli. Questa è la seconda prova di Leonardo Detective in questa serie, di cui è autrice una scrittrice americana molto appassionata del Rinascimento italiano. Siamo dunque a Milano nel 1483. La protagonista è un aiutante di Leonardo che si trova al servizio come ingegnere di Ludovico il Moro. Si tratta di una ragazza travestita da maschio per poter entrare nella bottega del grandissimo artista. E proprio questo trucco si rivelerà decisivo nello svolgimento della trama, che parte dall'apparente suicidio di una dama che si getta dal castello sforzesco. Sentiamo dal libro le prime righe che descrivono l'impressione suscitata sul garzone dalla vista del castello sforzesco, che qui appare nel libro della scrittrice, per la verità corrispondente più all'immagine che ne abbiamo noi oggi. Per tutti i santi, siamo quasi a casa. Vedo le mura del castello. Mentre il giovane dal viso angelico pronunciava quelle parole, avevamo raggiunto la cima dell'ultima altura e in lontananza c'era apparsa la pietra rossiccia del castello sforzesco. Mi sentii come sempre in soggezione alla vista di quella magnifica fortezza, coi suoi blocchi di arenaria rozzamente sbozzati, splendenti sullo sfondo del cielo azzurro. Forse fuori del ducato esistevano castelli più grandi e magari anche più belli, ma di certo non possedevano l'audacia imperturbabile della grandiosa fortezza del duca di Milano. Osservai con attenzione la scena, dando briglia sciolta al mio occhio di artista. Da quell'angolazione la fortezza sembrava una grande mano che si sollevava intrepida dalla verde pianura ondulata su cui sorgeva. Le dita erano le massicce torri angolari, due cilindriche e due quadrate, e l'immensa torre dell'orologio in cui si apriva il portone principale. Non paga di accogliere qualunque cosa le finisse nel palmo, quella mano, nella persona del duca Ludovico Sforza, prendeva tutto ciò che voleva dai ducati e dai marchesati circostanti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. E il dundina con le ciuc, e il ventorna ciapa il luc, e iemena san vitur, ma senti quanti niur. E sono la vena, sono i do, e il dundina le sui ancamò, sono i tre, sono i quater, e il dundina le ateater. Rimaniamo dunque a Milano con Nanni Svampa e con alcuni altri libri pubblicati sulla città. Comincio con una collana il cui titolo riecheggia appunto quello di Bonvesin della Riva, Le nuove meraviglie di Milano. Il primo titolo che esce in questa collana è Milano è una cozza, storie di trasformazione, curato da Luca Doninelli e pubblicato da Guerini, 182 pagine, 14,50 euro. Questa è una serie di testimonianze e di prove di scrittura che provengono dal corso di etnografia narrativa del Centro Culturale di Milano e dal laboratorio di etnografia narrativa della Facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica. Quindi nel primo caso abbiamo tre autori con cinque prove. Sono tre autori non letterati di professione. Abbiamo un titolare di concessionario di automobili, un biologo rappresentante di prodotti farmaceutici e infine una casalinga, le prese tutti e tre con la trasformazione della loro città che essi contribuiscono a illustrare mettendone in luce gli aspetti segreti e le vite nascoste. Le seconde storie sono quelle degli studenti che si esercitano sui temi dell'Expo 2015, che come sapete è dedicato al tema dell'alimentazione, e quindi ne affrontano temi relativi, per esempio il dilagare a Milano della moda del sushi o l'irreversibile affermazione di un rito tipicamente milanese che si è naturalmente diffuso in tutta Italia, quello dell'happy hour. E dal primo gruppo di racconti vi propongo le righe di Fabio Greco, il biologo scrittore, scritte in stile sudista ambrosiano, che danno il titolo a questo libro. Milano è una cozza, signore. Brutta come una cozza. Ma poi è anche buona come una cozza. Anzi, signore, Milano è un chilo di cozze che prima ne prendi una, poi un'altra ancora e non ti fermi più. Solo stai attento all'epatita, alla malattia, signore, che se esageri con Milano tutta in una volta poi t'ammali. Milano la devi prendere a poco, signore, una cozza alla volta, stando accorto ai granelli di sabbia, al putridume, che pure a Milano ci sono le zozzarie, come qua sotto. Ma poi ogni tanto, tra tutte le cozze che ci stanno in giro, magari te ne capita una più brutta delle altre, ma dentro tiene una perla, signore. E là a Milano ti fa pazzo, che la perla a Milano non te l'aspetti. Una serie di immagini su questa Milano segreta e molteplice è nel libro curato da Giovanni Chiaramonte e Camillo Fornasieri e pubblicato dal Centro Culturale di Milano e dalle edizioni CUSL, Milano XXI secolo, 142 pagine, 20 euro, che contiene un reportage fotografico di Walter Riccardo Francone, Silvia Morara e Alessandro Tosatto, accompagnati dai testi di Stefano Boeri, Paolo Galassi, Giulio Sapelli, Santo Versace e Giorgio Vittadini, che vengono intervistati da altrettanti giornalisti di giornali milanesi. Ori Saver, meste che fumi, comincia i desur, finisce mesti, giri la baia col motofurgo, vedi di scio a so de saun. Le tracce della Milano del Novecento ritornano in un classico del secolo scorso, La vita intensa di Massimo Bontempelli, un grande scrittore vissuto tra il 1878 e il 1960, collaboratore di Malaparte, autore di questo libro che è del 1920, che viene riproposto da ISBN Edizione, 216 pagine, 11 euro. Questo libro è presentato in una collana che ripropone titoli magari dimenticati del Novecento. Questo di Bontempelli è davvero una riscoperta che merita di essere recuperata. Bontempelli è un grande scrittore, poi il romanzo è riuscitissimo innanzitutto per la formula. 10 fulminei romanzi, così li definisce Alessandro Tinterri nella postfazione, che ruotano intorno all'idea di descrivere la nuova borghesia del Novecento. E a lunedì i perché, l'ora l'ora e no del someste, l'ora impaga, anticipa, bella stevet vegni con mia bala. Una Milano che invece respinge è quella di Milano non esiste, di uno scrittore calabrese, Dante Maffia, pubblicato da H, 202 pagine, 12 euro. Questo è un libro insolito in cui troviamo reperti del passato come una famiglia numerosa di immigrati calabresi che ruota intorno al padre, un operaio immigrato appunto che a Milano non si è mai veramente e autenticamente inserito e che vuole tornare a tutti i costi nella sua regione di origine. Ci tornerà, ma da solo, perché i figli non ne vogliono sapere di lasciare Milano. E dunque il suo diventerà un esilio a casa propria, sempre più introverso e disperato. Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontan, tu t'adora e piscinina, ti te domine et Milan. Sota ti se viv la vita, se sta mai cui mani in man, canten tus lontan de Napoli se ber, ma per venire anche a Milano. A Milano è dedicato poi il libro guida di Paolo Roversi, Milano Diamante, un'avventura per scoprire Milano, storie, enigmi ed sms, pubblicato da YY, 106 pagine. Questa è una guida ma completamente insolita, perché le storie si compongono attraverso di una serie di enigmi a partire da messaggi telefonici. Quindi si parte da un numero di cellulare, da una zona di Milano, e poi si gioca a comporre delle storie contenute nei frammenti delle pagine, o meglio nelle strisce in cui sono divise le pagine stesse del libro. Concludiamo con due grandi protagonisti della Milano contemporanea. Il primo è Ettore Sozzas, il grande architetto e designer, di cui Adelphi pubblica Scritto di notte, 300 pagine, 25 euro. Si tratta di un'autobiografia, l'autobiografia di un uomo, come scrive lo stesso Sozzas, nudo, tutt'al più con le mutande, ossia esposto, spiega, all'aggressione dei climi, alle unghie dell'amante, alle armi da taglio, alle spade e coltelli, agli sputi delle folle, alle risate dei sapienti. Sozzas confessa di non avere granché di eccezionale o avventuroso da dire: non ho vinto battaglie, non ho assalito banche, non ho truffato nessuno, non ho avuto miliardari per amanti, non ho pensato mai di essere al centro del mondo, non ho mai detto agli altri come dovevano essere, tantomeno guidato popoli al massacro. Ecco la descrizione negativa che Sosa dà di se stesso. Eppure queste pagine incantano per la capacità di cogliere, di descrivere, come dimostrano per esempio queste righe particolarmente adatte a questi giorni di luglio e che dedico ai visitatori, ai turisti che in questo momento si trovano all'isola di Ponza. A Ponza avevamo una stanza piccola, povera, poca acqua, tendine trasparenti, saponette smilze. La finestra dell'Hotel Mari dava su muri bianchi e terrazze con gatti e gerani mezzi morti dal sole, ma con qualche fiore molto rosso. La coperta del letto, lavorata all'uncinetto, era bianca antica, di cotone, e tra il letto e le pareti si passava a malapena. Ma la stanza, ad ogni modo, era invasa da quella patetica penombra luminosa dell'estate mediterranea, che poi ti lascia nostalgia per tutta la vita. O forse è quella penombra la nostalgia della vita. L'altra figura è Alda Merini, la grande poetessa di cui Rizzoli propone un libro con DVD, Nuove magie, aforismi inediti 2007-2010, 118 pagine, 16 euro. Sono poche righe, poche parole, alcune di queste dedicate ai libri, come queste per esempio, con le quali la poetessa bolla la corsa infinita allo sfruttamento di un nome, anche del suo. Scrive infatti la Merini: non so quanti libri ho scritto, quante poesie continuano a chiedermene, come se la mia mente non avesse bisogno di un naturale svago, come se la catena di montaggio non finisse mai. E a questo punto il confettino ci riporta al gioco e alla scoperta, la caccia al tesoro per tutte le occasioni, un libro di Marsilio Parolini illustrato da Massimo Alfaioli, pubblicato da San Paolo, 246 pagine, 18 euro, un libro per giocare all'aperto, per arricchire la caccia al tesoro con anagrammi, parole impazzite, immagini intruse, lettere sbagliate, ogni sorta di prova per passare una giornata in compagnia. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione, Peter Bescapè in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Vi ricordo che sul nostro sito www.radio24.it potete riascoltare sempre queste e tutte le altre trasmissioni. Questa trasmissione in particolare può essere riascoltata in replica sabato alle 16.30. E con questo vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.